Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, direi, se vi piace l'idea, di iniziare la puntata con una bella stretta di mano, che è uno dei modi più consueti per entrare in relazione con l'altro, per mostrare cordialità, per rompere il ghiaccio, per salutare, per rapacificarsi. Pensate a quante mani stringete ogni giorno, ma anche a come lo fate. Buccia di banana o straccio bagnato. Poche strette sono così poco apprezzate come quella di una mano molle, fredda e magari sudata. Sgradita in tutto il mondo, viene associata a un carattere debole e spesso interpretata dall'interlocutore come una mancanza di interesse. Lo schiaccianoci. Si tratta della stretta più temuta. Lascia un ricordo indelebile nella mente di chi la subisce e spesso è associata a traumi più o meno lievi delle falangi. È la presa della persona aggressiva che tenta di scoraggiare presunti avversari fracassando loro una mano. In punta di dita. È una presa che manca al bersaglio, in cui si afferrano, apparentemente per sbaglio, solo le dita dell'interlocutore. In realtà si tratta di una strategia per tenere a distanza la persona a cui si stringe la mano. Questa stretta è di solito associata allo snobismo. La presa a braccio di legno. Come la precedente, segna una distanza e serve a tenere l'interlocutore fuori dal proprio spazio personale. È usata generalmente dalle persone diffidenti che irrigidiscono il braccio nel momento in cui porgono la mano. La stretta elastica. Si tratta di una presa in cui il soggetto afferra la mano dell'interlocutore e la stringe con una serie di movimenti vigorosi e ritmici, ascendenti e discendenti, per almeno una decina di volte, anche se si registrano casi in cui la stretta continua all'infinito. La presa a risucchio. Chi usa questa stretta applica una spinta verso di sé nel tentativo di trascinare l'interlocutore nel proprio territorio, facendogli quasi perdere l'equilibrio. È in genere usata dalle persone un po' invadenti che vogliono imporre le proprie regole. Allora, banana, schiaccianoci, in punta di dita, braccio di legno, elastica, risucchio, qual è la mano che voi, la stretta di mano in cui vi riconoscete e in quale soprattutto vi piace ricevere? 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, 349 238 6666 per inviarci messaggi. Potete seguirci su Twitter e questa è una bella novità, e come sempre sul nostro profilo Facebook. Ma qui in studio con me ho il professor Giorgio Paiardi. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Direttore della scuola di specializzazione di chirurgia plastica all'Università degli Studi di Milano e dell'unità operativa di chirurgia della mano al Policlinico Multimedica e San Giuseppe di Milano. Professore, lei che stretta di mano dà? Ma in linea di massima nessuna di quelle che ho letto. Mi verrebbe da dire normale. Normale, che deve essere un po' vigorosa, ma non troppo. Sì, sotto profilo professionale la più pericolosa è sicuramente quella schiaccianoci. Sì. E sembra una battuta, ma ci sono pazienti che abbiamo operato per questa stretta di mano e viene veramente la voglia di arrabbiarsi e di perdere come amico chi ci ha salutato in quel modo. Senta professore, ma la mano, che è un organo magnifico, meraviglioso, l'abbiamo imparato già a conoscere più volte con il suo aiuto, e a differenza degli altri noi lo abbiamo sempre sott'occhio, quindi possiamo accorgerci se cambia forma o se funziona in modo diverso. Quindi ai nostri ascoltatori lanciamo già subito queste due indicazioni: osservatevi le vostre mani, sono cambiate nel tempo perché cambiano da quando nasciamo a quando diventiamo anziani, ma cambiano anche proprio nel corso dell'età adulta, e soprattutto come funzionano. Il professor Paiardi è a nostra disposizione all'800 24 00 24, ma ci aiuterà anche a capire qualcosa di più. Iniziamo a guardarle? Certamente, ma dobbiamo guardarle e anche sentirle, perché la caratteristica che offrono gli organi che possiamo vedere più facilmente, la mano o nello specchio il viso, è che noi tendiamo ad associare quello che noi sentiamo come disturbo, come sintomatologia, qualcosa che vediamo. E quindi il paziente a volte arriva preoccupato per una cosiddetta nocca, per un'articolazione che sembra un po' più rovinata, un po' più gonfia, e poi gli si chiede: ma lei dà fastidio? Dice: no, non sento nulla. È solo brutta. Poi gli chiedi dei sintomi che sono riferiti a tutt'altro. Quindi è giusto che il paziente evidenzi quello che ha sotto gli occhi, ma non deve dimenticarsi, perché poi magari il medico non glielo chiede, ma si faccia avanti, di raccontare anche quello che sente per capire se c'è corrispondenza. Un cambiamento nel tempo è normale, la mano dal bambino neonato fino all'età più adulta assume diverse sfumature, diverse conformazioni, esattamente come il resto del nostro corpo. Perché cresce? Perché cresce. È una zona in cui, per fortuna almeno lì, di grasso ce n'è ben poco, quindi non subisce, più di un tanto questo. Negli ingrassamenti, nelle diete, se non nell'essere magari un po' più sostenuta o un po' più secca, un po' più smilza. Ma l'apparato scheletrico è, come dire, veramente nel senso della parola, l'ossatura che la tiene in piedi. E basta, non so se ci ha mai pensato, ma quando abbiamo una banale puntura di zanzara su un dito sembra un ascesso, perché di spazio non ce n'è, fa un male terribile e uno si domanda perché proprio lì doveva pungermi la zanzara. Oppure di solito pungono fumo tra le dita, vero? Esatto, cioè cattiveria proprio allo stato puro e rende così difficile la nostra gestualità nel corso della giornata. Quindi guardatevi le mani, guardate attentamente le vostre dita, provate anche a muovere le mani, a capire esattamente come funzionano, come afferrate. D'altra parte noi le usiamo benissimo le mani, perché siamo dei grandi gesticolatori. Non si parla così in italiano, si parla coi gesti, si può parlare tutte le lingue muovendo le mani. Gesti? Like this? Con i gesti. I gesti? Con i gesti! Non lo so. Ok, non hai capito. He's a yelling. Braccia, gesticolare. Com'è? Noi parliamo con le mani, gesticoliamo, professor Paiardi, forse questa possiamo considerarlo un po' una ginnastica soft per le nostre dita e le nostre articolazioni. D'altra parte diamo più risalto a quello che diciamo, no? Aiutandoci con i gesti. Assolutamente sì, spesso dicono più le mani che non le parole o la mimica del volto, soprattutto quando le personalità possono essere apparentemente poco comunicative. Le mani sono sottoposte durante tutto il giorno a un lavorio incessante, non hanno bisogno di essere sottoposte in condizioni di normalità ad esercizi particolari, come tali non dovremmo trattarle male. Lei prima diceva noi le usiamo tanto, non sempre però le usiamo bene, sono estremamente raffinate e nonostante questo noi le usiamo a volte come fossero dei badili e è uno spreco, perché in fondo non useremmo un utensile, che so io, di cucina delicato per compiere invece un'azione di giardinaggio, un gesto in giardino. Quindi un po' più di attenzione verso le nostre mani, guardarle nel senso di accorgerci quello che fanno tutto il giorno e essere magari un po' più attenti, un po' più selettivi, il tutto per non diventare poi nostri clienti nel tempo. Assolutamente, vogliamo lasciarvi lì dove siete. Tra l'altro le nostre mani, attraverso le mani noi possiamo conoscere, infatti le mani sentono. Distinguere la lana dalla seta? Missione meno facile di quello che sembra, se la mano non è all'altezza. Le dita piccole sono infatti più sensibili, secondo quanto emerge da uno studio della McMaster University. Una spiegazione, commentano i ricercatori, alla maggiore qualità del tatto delle donne, che in media hanno mani meno grosse dell'altro sesso. Il merito è dei recettori nervosi, piccole cellule disperse sull'epidermide, che trasmettono impulsi al cervello su quanto stanno toccando, sfiorando, accarezzando. La verifica, riportata sul Journal of Neuroscience, è stata condotta su un gruppo di 100 studenti universitari. Mani diverse tra di loro, stesso compito. Esaminare in punta di dita le scalanature parallele di un oggetto. Con 5 dita piccine, la conta era più aderente alla realtà. Non una capacità innata o spiccato senso femminile, ma recettori più vicini e più sensibili. Unica eccezione, l'indice più affusolato e più sensibile del più minuto mignolo, rivelano i ricercatori guidati da Daniel Goldrich, che adesso studieranno come trasferire queste conoscenze in una tecnologia che permetta di toccare e sentire tessuti di abiti comprati online. Le dita affusolate e appuntite sembrano essere, infatti, un'arma infallibile per tastare e riconoscere il mondo circostante. Alcuni recettori, chiamati cellule Merkel, rispondono meglio alle nervature degli oggetti, mentre altre hanno il compito di catturare vibrazioni e movimenti. La densità di queste piccole ventose diffuse sui polpastrelli conferisce un vantaggio a chi possiede mani piccine. Le donne, concludono i ricercatori, hanno per questo maggiore predisposizione a lavori manuali molto delicati, come il ricamo o la chirurgia. Piccole e sensibili. In linea con noi abbiamo la dottoressa Giovanna Luini, responsabile della comunicazione scientifica di IEO, Istituto Oncologico Europeo, che sicuramente avrà quindi delle mani che sentono in modo particolare. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta. È vero, noi donne abbiamo una marcetta in più. Adesso non so se il professor Pagliardi, che è qua in studio con me, sì, mi sembra vero? Sulla chirurgia assolutamente sì. Sulla chirurgia sì. E il merito sarebbe appunto di questi piccoli recettori. Tra l'altro alcuni hanno un nome curioso, le cellule Merkel. Dottoressa. Sì, intanto sono felice che esista questa notizia, perché in effetti anche da noi in IEO le donne chirurgo sono tante e questo ci riconforta molto, a quanto pare abbiamo mani adatte. Le cellule di Merkel sono affascinanti recettori, cioè sono capaci di sentire le nervature, i dettagli degli oggetti, cioè il dettaglio piccolo. Le dita delle donne, a quanto pare, avendo i recettori più vicini, quindi questi piccolissimi organi di senso messi nella pelle, riescono a cogliere dettagli fini. Ecco perché forse toccando cose che hanno bisogno di essere distinte bene sono più capaci di fare una diagnosi che può essere anche, per esempio, distinguere la qualità di un vestito da un altro. Grazie alla dottoressa Luini per essere stata con noi, buona giornata. Grazie, buona giornata. E buon tatto, tatto e contatto. In linea con noi abbiamo Bruna che ci chiama da Milano. Buongiorno Bruna, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per la trasmissione di tutte le mattine, che è interessantissima. Io ho un problema alle mani, ultimamente mi scappa dalla mano facilmente gli oggetti, soprattutto la mano sinistra, e ho male al pollice, che si ripercuote anche sull'incavo del gomito. Insomma, un dolore che cammina. No, è abbastanza fermo, è abbastanza fermo. Io guido molto, sono agente di commercio, quindi ho una posizione anche in macchina di tante ore ferma in un certo modo. Ma quello che mi spaventa, il tatto ce l'ho, non ho la forza, soprattutto la sinistra, e ho questo dolore che è nell'incavo del gomito. Grazie a Bruna da Milano e sentiamo Lilia che ci chiama da Roma. Buongiorno Lilia. Buongiorno Nicoletta. Senta, il mio problema è questo. Io ho 60 anni e da un paio d'anni ho un formicolio alle mani, e questo mi succede la sera, soprattutto quando mi rilasso, mi metto al computer, prendo in mano un libro. Quando ho in mano un oggetto, appunto come un libro o come un'altra cosa piccola, insomma, ho questo formicolio alle mani, entrambe le mani. Grazie Lilia. Allora, professor Pagliardi, due storie diverse, due storie di donne con le cellule Merkel. due storie di donne che poi non sono così tanto diverse. Io credo che dobbiamo fare una piccola premessa. Anzitutto, frequentemente, soprattutto quando si tratta di mani, noi tendiamo, come è logico, a dare la colpa a quello che facciamo, sia esso un lavoro, un hobby o comunque l'attività, senza renderci conto che la patologia è indipendente da quelle e si manifesta più frequentemente nel gesto che compiamo durante il giorno, quindi il lavoro piuttosto che non un hobby. E l'altro aspetto, questo sì, come diceva la prima signora, è che in assenza di ogni diagnosi comincia una specie, come dire, di piccola e benevole e simpatica persecuzione familiare della serie: è certo che sei distratta, passano gli anni, ed è anche questo un luogo comune. Avere una alterazione del sensorio o della forza è abitualmente un sintomo riferibile a una sofferenza di un nervo. Sì. Il formicolio della mano può essere dato nella maggior parte dei casi da una patologia nota di cui abbiamo avuto modo di parlare, che si chiama sindrome del canale carpale, meno frequentemente dalla compressione di un altro nervo all'ulnare a livello del gomito. Il comune denominatore è che quando c'è sofferente un nervo dobbiamo aiutarlo, perché a differenza di altri distretti articolari, tendinei, la possibilità di un trattamento conservativo sono minori, perché per i nervi non abbiamo alla fine l'arma di scorta, lo cambiamo. Sì. Dobbiamo fare in modo di salvaguardare al meglio quello che abbiamo e farlo guarire. E come si fa? Allora, diciamo che il primo punto di partenza quando i disturbi sono iniziali. Quindi quando avvertiamo quel piccolo dolore, il formicolio, è importante in un dito, in più dita? Sì, diciamo che nella maggior parte dei casi il disturbo è concentrato tra pollice, indice, medio e parte del quarto dito. Sì. Il quinto dito abitualmente è esente, perché dipende appunto dal nervo che è meno frequentemente coinvolto. Allora, quando cominciano i primi disturbi, se l'esame elettromiografico, che è un elemento di grande aiuto anche a livello di medicina di base, è ancora negativo, un utilizzo di tutori fatti appositamente sul paziente e un programma di terapia occupazionale, che non è fisioterapia e riabilitazione, ma è sostanzialmente postura, come potremmo immaginare per altri distretti corporei, permette un controllo e talvolta anche una regressione della patologia. Pensiamo a quelle forme, per esempio, che insorgono violentemente nel corso del quinto o sesto mese di gravidanza. Quindi c'è una causa evidentemente nota, si tratta di tirare un momento più favorevole per l'organismo. Quando invece, come avviene purtroppo nella maggior parte dei casi, si arriva a una diagnosi quando l'esame è già positivo, l'unica soluzione è di tipo chirurgico e deve essere la più corretta possibile, meglio se endoscopica, e la più tempestiva possibile. E noi continuiamo a parlare di mani, mano e dintorno, e mi interessa molto sapere anche che tipo di stretta avete e che tipo di stretta amate ricevere. Molti di voi mi stanno scrivendo. In effetti quella banana, professor Paiardi, che abbiamo definito così nella nostra scheda, e quella schiaccianoci sono quelle meno gradite, almeno agli ascoltatori di Essere Benessere. 800 24 00 24. Abbiamo Angela che ci chiama da Milano. Parleremo anche tra poco però di carezze. Angela, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamata. Professore, mi rivolgo direttamente a lei subito. Ho già 60 anni, da 6 anni sono in menopausa. Ho una cura, una terapia sostitutiva, ma è per fortuna, perché nonostante ciò, da qualche anno io lavoro nell'ambito della riproduzione archeologica, ho bisogno di lavorare sul piccolissimo e tutti e due i pollici, la mano destra e sinistra, praticamente falange, falangina e falangetta, sono molto molto doloranti. Ho provato di tutto, ho provato una specie di talassoterapia casalinga, immergendo le mani in acqua calda, concentrando del sale marino iodato molto, qualcosa sono riuscita ad attenuare, però non mi basta. Sono 10 giorni che sto prendendo un Orudis 50 milligrammi al giorno, ma penso di stare per intossicarmi a questo punto. È l'unica cosa che mi fa un pochino passare il dolore. Quindi, se praticamente dovessi, sto facendolo anche in questo momento mentre vi parlo, ruotare creando una specie di piccolo cerchio nello spazio il pollice da sinistra verso destra, io ho dei dolori fortissimi e non riesco più a lavorare. Eh no, Angela, cosa posso fare? Ecco, perché quando le mani si bloccano noi non ce ne rendiamo conto, ma la nostra vita ha un cambiamento radicale. Quando ci accorgiamo che abbiamo delle mani vuol dire che non stanno bene. Normalmente le facciamo lavorare senza neanche guardarle, appunto perché hanno la sensibilità. Allora, partiamo da due premesse che risentono un po' di quel discorso che abbiamo accennato, diciamo, di luogo comune: il lavoro e la menopausa. Ci sono delle situazioni fisiologiche dell'organismo o lavorative in cui certe situazioni si manifestano con maggiore importanza, ma non dimentichiamo che il problema del pollice esiste in certe forme congenite nel bambino e che il nervo infiammato ce l'hanno anche i ragazzi a 20 anni. Quindi non imputiamo quella fase della nostra vita, e quindi non possiamo aspettarci dalla terapia che la sostiene una risoluzione ad un problema che non c'entra nulla. Per quanto riguarda il pollice è la mano. Noi potremmo avere, come hanno certi bambini malformati, una mano a 5 dita, ma senza il pollice quella non è una mano. Non funziona bene. La presa è legata al pollice. Un dolore al pollice può essere legato o al malfunzionamento del nervo che abbiamo prima citato nella sindrome del canale carpale, ma se è così dolente e così limitato, vi sarà con molta probabilità un difetto di scorrimento del tendine, quindi il dito fa fatica a piegarsi in quello che viene amichevolmente chiamato dito a scatto, oppure, se il dolore è così importante, un'alterazione dell'articolazione della base del pollice, e la denominazione è rizoartrosi, artrosi trapezio metacarpica, che anche qui, lo ricordiamo, si chiama artrosi perché qualsiasi processo degenerativo delle articolazioni si chiama artrosi, ma ce l'hanno i ragazzi giovani proprio per usura meccanica. La presa del pollice è quello che a livello motorio ci distingue da tutto il mondo animale. Quindi il sovraccarico e il cattivo uso lo fanno rovinare per prima. Se siamo tempestivi nel curarlo, lo salviamo. Allora, salviamo il pollice, andiamo a sentire i mercati, poi il meteo, poi di nuovo qui insieme. Stiamo pensando a come stringiamo la mano, stiamo guardando le nostre mani, se sono cambiate di forma, come è cambiata la loro funzione, ma anche a come usiamo le mani. Abbiamo capito che il pollice è essenziale e le mani possono dare molto benessere. Essere e benessere. Mano, abbiamo iniziato la puntata con una bella stretta di mano e mi state scrivendo al 349-238-6666 le strette di mano che vi piacciono, quelle che amate ricevere, quelle che vi allontanano. 800-24-0024. Abbiamo in linea con noi Carlo che ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno Carlo, benvenuto. Grazie per il benvenuto, buongiorno a tutti voi, spero mi sentiate bene, mi dicevano che la mia voce non è molto alta, comunque proverò. È un po' da neve, Carlo. Certo, è vero. Cosa volevo dirvi? Volevo solo fare un commento. Io considero la stretta di mano quasi come un mini abbraccio, per cui in realtà quando la do, quando la propongo e quando la ricevo, mi piace che sia con il braccio flesso alla ricerca di una posizione comune, di una zona comune con l'interlocutore, sì, e che sia decisa, non dolorosa, non scarpata, deve comunicare la genuina intenzione di stabilire un rapporto, un dialogo. La stretta di mano non è una formalità, è l'inizio di un discorso, di un rapporto con gli altri. Questo era il mio commento. Carlo, se lei, guardi, ha dato un commento perfetto, io aggiungerei guardiamoci negli occhi quando ci stringiamo la mano. Professor Paiardi, cosa dice? Se la mano è insieme al volto l'unica parte alle nostre latitudini almeno che, eccetto nei giorni di neve, è scoperta, è il nostro biglietto da visita, il nostro momento o di incontro o di allontanamento. Quindi non c'è dubbio alcuno. E allora, dato che mi avete dato un dito, perché mi state iniziando a scrivere come vi stringete le mani, io come sempre si dice, no? Mi prendo il braccio e da un gesto formale, apparentemente formale, perché come ci spiegava Carlo, non è un modo per entrare in contatto con l'altro e parla di noi, io vi porto a parlare di un gesto più intimo. Parliamo di carezze. Mamme amorevoli. Grazie a loro il cervello del bambino si sviluppa meglio. Lo hanno stabilito i ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis, Stati Uniti. Secondo lo studio, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, le madri con il profilo da accudimento, quelle che sono più attente e meno severe, influenzano positivamente lo sviluppo cerebrale del bebè. E in particolare dell'ippocampo, struttura legata alla risposta all'apprendimento, alla memoria e allo stress. Nello studio i ricercatori hanno condotto un esperimento con bambini dai 3 ai 6 anni. Era riprodotta una situazione di stress nel rapporto madre e figlio, tipica della quotidianità. A distanza di diversi anni, in bambini accuditi da mamme più pazienti è stato riscontrato un ippocampo più grande del 10% rispetto ai ragazzi rientrati nell'altra categoria. Da Salute 24, questo è il portale che potete visitare, che vi invito a visitare, ricco sempre di notizie e aggiornamenti. Le carezze aiutano a crescere. Ne parliamo con la dottoressa Roberta Giommi, psicoterapeuta e sessuologa. Buongiorno e bentornata, dottoressa. Buongiorno. Allora, i bambini amati crescono meglio, questo lo sappiamo tutti, ma la carezza ha un ruolo molto importante che viene anche sempre più indagato dalla ricerca. Sì, cioè la carezza in realtà poi è un contatto in cui c'è la delicatezza del movimento e la presa di cura, cioè quindi è proprio un gesto completo da un punto di vista corporeo e anche da un punto di vista del contatto. e quindi regala la sensazione di essere capiti dalla persona che abbiamo davanti e anche accuditi da un punto di vista fisico, quindi è importante per i bambini ma un po' per tutte le fasce d'età. Ecco, poi si perde un po', i bambini si accarezzano, fanno tenerezza, siamo naturalmente portati a fare magari a loro le coccole, poi la carezza è proprio un gesto che nell'età adulta si perde un po'. Come mai? Allora, dunque, il discorso è che in realtà si ritiene che le coccole siano più adatte per le generazioni piccole, cioè quindi per i bambini, e tra l'altro anche le coppie adulte, cioè i partner, tendono nelle prime fasi a accarezzarsi molto, a baciarsi, a fare l'amore e poi diventare più avari in questi gesti che poi possono segnalare un riconoscimento, cioè ti ho visto, ho voglia di avere un contatto con te leggero, poi vedremo cosa succede nel nostro rapporto. E questa cosa, cioè questa perdita, riguarda anche i figli, ma con i figli adolescenti è normale perché magari lo vogliono far loro, ma non desiderano che tu li tenga prigionieri nelle coccole perché vogliono essere, virgolette, grandi. Ecco, questo gesto però in qualche modo va preservato, secondo me, nei rapporti di coppia, anche con i figli nel momento, magari una cosa un po' più distratta, un po' meno importante di quella che facciamo con i bambini, e anche con le persone anziane che ci stanno vicino, perché in realtà è come dire hai un corpo, so che ci sei, so che tu vuoi che tu possa provare emozioni o sensazioni. Ecco, questo anche proprio ricordiamoci, il contatto e la carezza con la persona anziana. In questo weekend sono stata in ospedale e vedevo le persone anziane che proprio erano desiderose, le persone malate, di essere in qualche modo abbracciate, toccate, sfiorate, proprio per un passaggio, no? di affetto, di attenzione, di energia. Quindi è un invito che facciamo, non fate le coccole ai vostri bambini, nella coppia e anche alle persone anziane. Dottoressa Giommi. Sì, anche perché appunto nel momento in cui tu circondi il corpo di un'altra persona, che sia il tocco lieve della carezza sul volto, che sia l'accarezzare il corpo, dell'abbracciare, tu in qualche modo esprimi un riconoscimento, cioè quindi dici all'altro ci sei, ti vedo, ti sento. E quindi in questo gesto, che può essere appunto il piccolo gesto della carezza sul volto, ma anche appunto l'accarezzare in maniera, nell'abbracciare, secondo me si esprime la possibilità che l'altro pensi, sono nel tuo cerchio, cioè non sono stato abbandonato, tu mi riconosci, che è un po' l'ansia o l'aspettativa che ognuno di noi conserva, proprio perché cioè poi c'è molta solitudine, molto freddo, molta sensazione di non essere così tanto accolti, ecco, che è abbastanza forte nelle persone. Grazie dottoressa Giommi per questo intervento che ci arriva un po' come una carezzina. Grazie a lei, buona giornata. Buona giornata anche a voi. Andiamo ad Anna Maria che ci chiama dalla Spezia. Buongiorno Anna Maria, benvenuta. Grazie, buongiorno Nicoletta, complimenti e grazie dell'opportunità di parlare col professore Paiardi. A giugno del 2010, cadendo, mi sono fratturata al polso sinistro. Dopo un anno, nel 2011, ho scoperto di avere nella parte centrale del palmo della mano sinistra due palline, una più grande in corrispondenza del medio, una più piccola in corrispondenza del mignolo. Sono state definite da un medico cisti, da un altro inturgidimento della guaina. Entrambi hanno escluso terapie valide e mi hanno prospettato l'intervento nel caso di perdita del movimento delle dita. Desideravo conoscere l'opinione di un esperto, perché un professore. Grazie. Però la telefonata di Anna Maria insegna che più medici si sentono, più diagnosi diverse si ricevono. Sembra così, professore, o no? Talvolta viene da diffidare quando due diagnosi concordano. Allora, probabilmente il trauma è stato qualcosa che ha innescato un processo, altrimenti il problema si sarebbe manifestato di lì a breve. E ci sono orientativamente, da quanto posso intuire a distanza, due situazioni. Una è che si tratti effettivamente di un trauma e un processo cicatriziale a carico della guaina e dei tendini, però la paziente non avrebbe tanto la chance se curarlo meno, perché lo scorrimento delle dita in questo caso è limitato e quindi avrebbe già fatto un percorso terapeutico. È assai più probabile quindi che si tratti di un morbo di Dupuytren, ovvero sia un ispessimento della membrana che noi abbiamo nel palmo della mano, che determina delle nodosità che a volte vengono interpretate anche come una specie di usura cutanea legata anche allo sport, al gioco, alla manualità. del nostro, della nostra attività quotidiana. Questa è una patologia che è su base congenita, la predisposizione è congenita, che può avere diverse manifestazioni. Abbiamo una persona che, come nel caso della signora, la riferisce occasionalmente, e di contro abbiamo nelle forme più aggressive ragazzi giovani che hanno le dita chiuse anzitempo. In questo caso, come abbiamo già avuto modo di affrontare in un'altra occasione, l'intervento chirurgico sembra proprio passare un po' in soffitta, perché con la sperimentazione condotta in Italia, che si sta concludendo in questi giorni e che il Ministero della Salute ha già approvato, entrerà in commercio a maggio una farmaco che, iniettato naturalmente sulla mano e da mani esperte, proprio a livello di questa nodosità, ne permetterà lo scioglimento senza bisogno di intervento chirurgico. Questo è bellissimo, a proposito, no? di mano e di mani esperte. Essere e benessere. Ed eccoci, siamo di nuovo qua e abbiamo Anna Maria che ci chiama da Pisa. Buongiorno Anna Maria, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Buongiorno. Un'esperienza che ho avuto a proposito di mano. Sì. Ho sempre avuto una stretta di mano, l'ho data io, sempre molto vigorosa e dinamica, fino al giorno in cui ho incontrato mia suocera, che una persona che difficilissima, però il giorno in cui l'ho incontrata mi ha accolta con questa stretta di mano a due mani, mi ha avvolto la mano anche con l'altra mano. Sì. Però non me l'ha avvolta male, nel senso che io non ero abituata a tipo di persone così, e mi ha trasmesso molta accettazione, calore, dolcezza, bontà, che sono state le cose che mi sono servite nel tempo, più tardi, quando lei si è ammalata poi di Alzheimer purtroppo, sì, per ricordarmi, nonostante questi atteggiamenti strani, a volte anche cattivi, che in realtà lei era così, come l'avevo conosciuta per la prima volta, con quella stretta di mano. Quindi una stretta di mano che le ha dato delle informazioni importanti e che ha in qualche modo indirizzato la sua relazione. Grazie Anna Maria. Buona giornata. E in questi giorni di freddo e di neve e di gelo, le nostre mani, naturalmente, anche se le vogliamo coprirle con i guanti, insomma, sono più secche, più arrossate, più ruvide, e allora vogliamo prenderci cura di loro. In linea con noi abbiamo la dottoressa Giulia Penazzi, farmacista e cosmetologa e autrice di Cosmetici Naturali Fai da Te e Cosmesi Anti-Age, tecniche nuove edizioni. Buongiorno dottoressa Penazzi, bentornata. Buongiorno Nicoletta. Veloce una cremina che possiamo preparare a casa, magari prendendo proprio i prodotti che abbiamo in frigorifero, in dispensa? Sì, dalla nostra cucina direttamente, perché in questo periodo già le mani sono uno strumento di lavoro e subiscono sempre continuamente uno stress, ma in questo periodo col freddo, ma ricordo anche d'estate, col caldo, con una forte disidratazione anche in corrispondenza di un eccessivo caldo estivo, dobbiamo coccolarle un pochino di più, e quindi proponevo questa ricettina che è da eseguire in tre passaggi. L'ideale è prima di coricarsi. Sì. Allora prendiamo 3 cucchiaini di miele, miele d'acacia, miele molto fluido, sì, e poi aggiungiamo 5 gocce di olio essenziale di limone, che sì, è ricco di antiossidanti e anche di sostanze schiarenti, perché poi le mani si formano facilmente dopo una certa età le macchie senili, quindi sì, se non ho l'olio essenziale metto il limone, va. Sì, qualche goccia, sì, di limone, dai, oppure un olio essenziale di lavanda, lo possiamo anche sostituire con un altro olio essenziale, ecco, sì, diciamo che limone o lavanda possono andare anche bene, oppure qualche goccia di succo di limone, che dopo ritroviamo nel passaggio comunque successivo. Va bene. Poi, se non abbiamo le mani eccessivamente rovinate, quindi eccessivamente rosse, screpolate, eccetera, facciamo un leggero scrub aggiungendo al nostro miele un pochino di farina di mais finemente macinata. Sì. Allora, per la granulometria e la quantità ci regoliamo in base alla nostra sensibilità. Certo, un po' quella quindi, con cui prepariamo la polenta. Facciamo tutto questo bel magari pasticcino. Con un bicchiere la rendiamo ancora un po' più fine, tipo materello, se non abbiamo proprio il materello col tagliere. Sì. La rendiamo un po' più fine in modo che non sia troppo aggressiva sulle nostre mani, perché così se certo, sono ancora più sensibili, noi non dobbiamo creare arrossamento ulteriore, ok? Quindi se abbiamo le mani troppo screpolate non la mettiamo, se no la mettiamo in quantità circa mezzo cucchiaino, una puntina di cucchiaino. Sì. Poi per diluire un po' il miele, che è un po' appiccicoso e sarebbe un po' difficile da massaggiare agevolmente, aggiungiamo un pochino di latte. Sì. Se vogliamo rimanere sul vegetale, un latte d'avena è perfetto. Sì. Oppure un latte di mandorlo, un latte di soia. Comunque il latte d'avena sarebbe la versione vegetale. Questo, con questi ingredienti si prepara uno scrub con cui massaggiamo le nostre mani, dopodiché sciacquiamo e abbiamo poi bisogno di idratarle. Dottoressa Penassi, come procediamo? Soprattutto potremmo, piuttosto che sciacquarle direttamente sotto l'acqua, metterle a bagno in un maniluvio costituito da 1,5 litri circa di acqua tiepida, nel quale abbiamo spremuto il succo di un limone. Eccolo lì che ritorna, perché schiarisce e ha un effetto levigante e idratante. Sì. Quindi va benissimo. Quindi noi mettiamo a bagno le mani in questo maniluvio tiepido e le massaggiamo delicatamente, teniamo a bagno un minuto. Sì. Poi le togliamo, le asciughiamo tamponandole, non sfregandole, meglio con un asciugamano di lino, quindi tamponandole leggermente. Poi massaggiamo le nostre mani con una miscela al 50% di olio di oliva extravergine e olio di mandorle e indossiamo dei guanti, quelli senza polverina assorbente, quindi i guanti che possono essere in nitrile, in vinile, però l'importante è che siano senza polverina assorbente, in modo, li teniamo per mezz'ora in modo da ridurre la perdita d'acqua per evaporazione dalla pelle, quindi si ha un'idratazione indiretta molto forte. E quindi avremo delle mani da fatta. Esatto. Poi dopo una mezz'oretta togliamo i guanti, emulsioniamo la quantità di oli che sono rimasti con la nostra crema mani e andiamo a dormire. Andiamo a dormire, poi esatto. Lì è carezze. Prima di coricarsi. Grazie alla dottoressa Penassi. Abbiamo tempo per sentire Nunzia da Bergamo. La ricetta la potete trovare sul nostro profilo Facebook, me la state già richiedendo. Nunzia, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, grazie per l'opportunità. Buongiorno professore. Buongiorno. Io sono stata operata 10 giorni fa per la seconda volta alla stessa mano al tunnel carpale, perché 4 anni fa il primo intervento non era andato bene. Allora la mia domanda è questa, intanto sulle cause, io sono pianista, per tanti anni ho suonato tanto il pianoforte, sì. Lavoro all'uncinetto, non so se queste possono essere delle cause scatenanti, e poi soprattutto che cosa posso fare adesso, terapie occupazionali o altro, per mantenermi la mano in forma il più possibile. Professor grazie. Pagliardi, come Nunzia ci racconta, il tunnel carpale può essere recidivo, no? In qualche modo. Allora, innanzitutto sulle cause, non abbiamo una causa, delle cause ben precise, proprio per quanto abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, in realtà noi accusiamo i gesti che compiamo quotidianamente, è una patologia talmente diffusa che è impossibile, sarebbe solo pretestuoso creare un nesso tra un gesto e la patologia stessa. Per quanto riguarda il trattamento, dovremmo dire in tutta franchezza che la regola è che si opera una volta e che le cose dovrebbero andare bene ad avere una soluzione definitiva, salvo quella minima percentuale di pazienti inferiore all'1% in cui ci siano delle cause note di partenza come pazienti dializzati, artrite reumatoidi o diabete. Quindi, ma nel cosiddetto canale carpale primitivo, cioè quello che può capitare a tutti noi, la soluzione è una nella vita, una per mano, perché la patologia è sempre bilaterale. Quindi il problema che manifesta e che riferisce la signora è che qualcosa non deve aver funzionato. Può per carità accadere, ma non dovrebbe accadere. Però lei ci ha dato già una notizia che se viene ad una mano arriverà poi anche all'altro. Sì, diciamo che questa non è una bella notizia. Ma io credo che, visto che accade, sia opportuno saperlo. Primo, perché uno fa l'elettromiografia una volta per le due mani e ha il quadro dinanzi, e poi perché evita di far arrivare la seconda mano grave come era la prima. Mi chiede la signora il post-operatorio, in questo caso riabilitazione a partire dalle 24 ore successive all'intervento, come sempre in mani esperte di fisioterapisti della mano. Grazie al professor Pagliardi per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete seguito, a Filippa Oreggi regge la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, venite a trovarci anche sul nostro profilo Facebook e scaricateci. A domani.